24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. La visione globale è una dittatura fatta da questo ebettino, che è un ebettone pericolosissimo, quindi molto sottovalutato anche da me, e questo me ne dispiace. L'ha presa Benino, Peppe Grillo, abbastanza bene. E Bettino, e Betone. Oh, ieri quando abbiamo fatto la trasmissione qui alle 9 del mattino c'era Luigi Di Maio che ci ha detto: sì sì, io vado alle 3, tutto pronto, ci sarà sicuramente l'incontro, perché così ci hanno detto, e se ci hanno detto così io vado all'incontro, non vedo perché debba essere rinviato. Questo alle 9.05, alle 9.30 l'incontro non c'è più. E Grillo, come detto, l'ha preso bene. C'è da dire però che in realtà l'ala moderata del Movimento 5 Stelle ha convinto Beppe Grillo a dire i 10 sì, i 10 sì al PD, rispondere punto per punto, ecco perché facciamo il dialogo, eccetera. E così ci sono le due anime, l'anima di Grillo, molto più combattiva, e l'anima invece del Movimento 5 Stelle, più pronta a collaborare sulla legge elettorale. Mamma mia, ragazzi, ha iniziato a parlare della legge elettorale. Alle 6.32 minuti, vi prego, non cambiate canale, non andate su Radio DJ in cerca di musica, non andate su Radio 105, non andate su Radio Monte Carlo, state qui, dai, su, state qui, non andate neppure su Radio Padania, che tanto Aurora Lussana è qui. Aurora Lussana, buongiorno, buongiorno, non andate su Radio Padania, aspettate, aspettate. No, aspettate almeno alle 7 per tirare. No, dai. No, perché alle 7? No, aspettate. No, meno che hai qualche ospite della Lega. Ah, alle 7. Seguo sempre le tue interviste. Alle 7 di sera, aspettate. Ah. No. Buongiorno, no. Milan. Buongiorno, no, oggi avrò il ministro Lanzetland, come si chiama? Sì, Lanzetta, no. Quella. Sì, affari regionali. Certo, sì, parliamo di Calabria, parliamo un po' di, no? Bello. Quello che è successo, bello. Vabbè, allora ti ascolto. Va bene, Aurora Lussana conquistata fino alle 8:15, quantomeno, con il ministro Lanzetta. Voglio salutare anche Vincino, eccoci. Vincino, eccoci qua. Abbiamo conquistato un'ascoltatrice, Aurora Lussana, fino alle 8:15, quantomeno. Vincino. Ma a me perché non mi inviti mai verso le 9, 8:09, perché quello che dico non è per quello pubblico là. No, posso dire cose solo per le 6:30, 7, ma figurati. Non ci sono due cose, è sempre Grillo che è isterico, che si droga, si fa un giorno è tutto incavolatissimo, mezz'ora dopo si prende 7 Valium, 3 Maluk, allora diventa tutto buono. Cosa è tutto nella sua pazzia, no? E noi siamo qua appresso alla pazzia di questo qua, che per giunta ci dice che una Di Maio è una carica istituzionale, un cretino con 178 voti, no, che è vicepresidente della Camera come altri 4 cretini come lui, dei quali 2 li conosco personalmente e sono gente carina, ma non sono cariche istituzionali. Adesso io come faccio? Sono più carica istituzionale di loro. Va bene. Come faccio adesso? Hai fatto, mi hai giocato il tweet, mi hai detto, ecco, 50 qua. Cose Senta, non so più. Scrivile tutte se sei bravo. Se adesso no, con via. calma. Intanto saluto Miriam Luchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè, apriamo il Parlamento. Mamma mia, ragazzi, come faccio adesso? Adesso ne ha dette troppe. Il caffè volentieri a tutti quanti. Va bene, cominciamo. Sta tutto nella pazzia di Grillo. Questa me la ricordo. Grillo, posso metterlo anche che lo coinvolgo come Beppe Grillo così? Cioè, lo metto con chiocciola Beppe Grillo così? Certo, chiocciola Beppe Grillo. Sta tutto nella pazzia di Grillo. Occhialetti firmati, chiocciola Beppe Grillo. Gli occhialetti firmati, sì, no? Sì, ma come hai detto? Orribili occhiali fuori la vecchietta, guarda, una cosa vergognosa, guarda, come cavolo si può uno come lui si mette quegli occhiali schifosi, orribili, che hanno solo la sua firma là, una, madonna mia, ma che, si potrà mettere gli occhiali che vuole, ma si potrà mettere, ma no, lui fa un partito e dice, e prende un casino di voti, ma non può mettersi gli occhiali, non può vendere gli occhiali in mezzo alla strada, e dai, e poi fa la carica istituzionale dei miei coetanei, scusa, non lo dico, però mi fa arrabbiare, e va. Va bene, aspetta, adesso, allora, perché è un po' lunga, sta tutto nella pazzia di Beppe Grillo, un folle che dice che Di Maio è una carica istituzionale, invece è un cretino. Lo dice anche Di Maio da solo, lo dice da solo. Invece è un cretino, così. Da 178 voti, sì, tanto sono le preferenze che ha preso Di Maio alle elezioni, ecco. Vabbè, Grillo l'ha messo là, era un disoccupato di Benevento, per favore, damo. Uno che da solo non era capace di fare nulla, nulla. Va bene, adesso, allora, Aurora Lussana, vediamo di essere un pochino con un... Ciao Aurora, scusa, ma mi sono svegliato male. Ha fatto tutto Vincino, tutto quello, tutto, si è svegliato col piede sinistro, come si suol dire oggi. Caldo zanzare, caldo zanzare, ma se piove diluvia, la smetti. No, fa freddo in Padania. Aurora, che temperatura c'è in Padania? Svegliamo un po' questo qui. Qua 13 gradi. Hai capito, 13 gradi in Padania. Adesso non lo so se voi... No, 13 gradi in casa, no, fuori di meno. Beh, adesso, ma dove vivi? Dove sei? Sull'Adamello? Dove sei? Non ho capito. Non passa lo straniero, sono sulla linea del Piave, va bene? Sei sulla linea del Piave. Vabbè, allora, tu Aurora hai una visione un pochino più sfumata, più edulcorata di quello che è successo ieri rispetto... No, vabbè, lì hanno anche avuto un po' di problemi di agenda, probabilmente non si sono confrontati bene sugli appuntamenti di giornata. È l'agenda Renzi, fa quel cazzo che vuole, quindi incontra chi vuole, va dove vuole, come, quando vuole. D'altronde, scusa, c'è anche un po' di schizofrenia tra i grillini, perché prima era legittimato perché ha preso il 41%, allora vado a incontrare mister 41%, poi gli dice no, buttami giù una bozza scritta, poi no, aspetta, dobbiamo vedere con chi, ma non lo so, noi abbiamo fatto oggi una prima pagina della Padania rappresentandoli come una sorta di Giano Bifronte, visto che dalla generazione Telemaco ci aspettiamo tante citazioni classiche, così forse alla fine sulla stessa faccia, nel senso, che dire, le riforme le fanno quelli che si sanno un po' muovere nei palazzi, e i grillini così, insomma, faticano un po', non si sanno un po' muovere, va bene, ci siamo come dire, abbracciamo tutti i grillini. Allora il testo è questo: Vincino a 24 mattino, Grillo, l'ho dovuto, sai, 140 caratteri, Grillo è un folle che dice che Di Maio è una carica istituzionale, invece è un cretino ex disoccupato. Possiamo... Sì. Che non è un insulto disoccupato, però. No, è una realtà. Non è un buon a nulla. Metto, guarda che questo è un po' forte, vado, twitto? Sì. È un po' forte, vabbè, io l'ho twittato. Comunque, sentiamo ancora Beppe Grillo che ieri... Noi facciamo satira, per cui chi ci facciamo... No, tu fai satira, ecco. Vabbè. Sentiamo un po', sentiamo sempre Beppe Grillo che parla di farsa, di ipocriti, falsi e vigliacchi. Questa farsa che hanno voluto portare fino all'estrema conseguente, perché sono anche vigliacchi, non hanno il coraggio di dire guardate, non, con voi non parliamo, non ci parliamo più, punto, neanche il coraggio, sempre una cosa, poi il contrario di quella, poi un'altra, sono ipocriti e falsi. Questo la gente lo deve sapere, quando fanno le leggi, quando fanno in televisione a dire le cose, quando fanno i loro cambiamenti e le riforme con dei pregiudicati. Eccolo lì, le riforme per i pregiudicati, vabbè, questo era un gran classico, parlava credo alla cosa. Vabbè, ma Vincino, adesso esci un attimo dal tuo ruolo anti-grillino, che dovrebbe fare adesso il Movimento allora, 5 Stelle? Loro per parlare con Renzi fanno finta di avere una legge elettorale, che mettono su una cosa ridicola, cretinissima, con le preferenze negative, positive, salto un giro qua, fa una strontata in mano, no? La presentano! e poi subito naturalmente capisco che la levano subito via e dicono ah vabbè vogliono tutto, è una cosa vergognosa. Avevo detto di uscire per un attimo dal ruolo dell'antigrillino, ma sì, hanno detto anche le preferenze negative le togliamo, basta che facciamo ho una capito, cioè... passi, ma fanno una cosa che la loro la levano su, era solo un trucco per andare a parlare con Renzi, ma Renzi mica è scemo, lo capisce queste cose e dice scusate tornate con un trucco migliore e gli dai compiti e questi qua prima non li fanno e poi dopo fuori tempo massimo li fanno e scusa ritornate l'anno prossimo, dice Renzi, ritornate l'anno prossimo. Vabbè comunque Renzi quando avranno il 3% dei voti l'anno prossimo dai, sì, vabbè, ma questa adesso tra poco la twitto anche questa. Intanto devo twittare questa di Aurora Lussana. È l'agenda Renzi, cioè fa il cazzo che vuole. Questa l'hai detto tu, eh? Ma sì, ma fa bene, c'è il 41%, comanda lui. Vabbè, vedi, appunto, cioè, qual è la questione? E allora, però, queste riforme si faranno, per esempio, vuole la riforma del Senato, il primo sì, entro il 16 luglio, perché deve andare al vertice europeo, l'abbiamo detto anche ieri, deve presentarsi in Europa con qualcosa di già fatto. Ce la farà Aurora Lussana? Sai come chiama i dissidenti? Minzolini e Mineo, la dinastia Min. Invece la dinastia Min ha dimenticato Mucchetti, sono tutti giornalisti infatti quando invece c'è Mineo Minzolini Mucchetti dice quelli sono i giornalisti, sono contro il Senato, sono tre ex giornalisti. No, è che anche se va su in Europa a dire che ha cancellato il Senato gli dicono va bene, ho capito, il debito pubblico cresce di ogni mese più o meno di quanto 30 miliardi, quindi bene che vada su in Europa a dire che ha abolito il Senato, va bene, vabbè. Sì. Comunque faccio senatori regalati, nessuno di questi si è conquistato, tutti e tre hanno avuto il posto regalato. No, non dice ah io sai mi sono conquistato nel mio seggio il Senato, no, tutti e tre l'hanno avuto regalato per meriti di carriera. Però attenzione, Mineo dice ma basta questi attacchi personali a dire che io l'ho conquistato il Senato, che sono nominato. Adesso ti faccio sentire Mineo, che è un altro che ti sta simpatico. Prima però devo dire a Aurora Lussana, ci sono due messaggi, ce ne sono anche un po' di più per Vincino, adesso li leggo. I due messaggi per Aurora è Lorenzo da Palermo, mentre raccolgo pomodoro e zucchine ci sono 25 gradi. Mentre Nino da Gioiosa Marea ci scrive, dica la Lussana che da me in casa ci sono 28 gradi e 30 fuori, mare calmo. Capito, ragazzi, in Padania. Qui nella mezzaluna fertile della Padania fa freccia. La mezzaluna si adegua pure lei al califfato. Vedi, esatto. Che è? Sta arrivando il califfato. L'ISIS arriverà a Roma, sempre che non si perdano sul raccordo anulare. Si è già inchinata ad al-Baghdadi, hai capito, vicino? Te la vedi? L'Aurora Lussana che è con tutto col caffettano, lei tutti col burka. Le grandi civiltà nascono anche sui fiumi, era un omaggio alla mezza Tigre e l'Eufrate, noi abbiamo il Po. Vabbè, invece i messaggi per Vincino sono sei proprio un poveraccio. Poi Matteo, ma quanto è coglione Vincino? Francesco, Vincino, sei un tutti così, non serve dire altro. Poi arriva un altro e dice Vincino, sei un doppio. Vai a disegnare che è meglio schiavo e servitore del sistema. No. Comprate il libro La cavalcata di Renzi, stupendo, 4,90 euro nelle edicole dove è rimasto, perché... è vero. Poi c'è anche questo che mi scrive Vincino è un diversamente etero. Ma così, quello era disoccupato e ora è vicepresidente, lui invece cos'è? Qualcuno che ancora ha 68 anni deve fare ancora 2 anni per andare in pensione, appunto. È proprio un disgraziato, a fine carriera oramai. Non dire così. Lunga vita e lunga carriera, te l'ho detto, a mettersi contro i grillini, vedi che i messaggi sono no, questi. Ma svegliarsi alle 6 e 5 e mezzo del mattino ogni giorno, guarda. Vabbè. 24 mattino. Caro Milan, non siamo più arrabbiati, purtroppo siamo sconfitti completamente, coscienti di essere dei poveri schiavetti, nelle mani di Dio solo sa chi, con ogni probabilità sempre gli stessi che se la fanno tra di loro da 2000 anni. Noi italiani siamo carne da macello, da spostare come mandri, ora da una parte, ora dall'altra. Ma la signora Armellini ha pagato i 14 milioni al fisco? Ma il patto del Nazareno dov'è il documento, caro Renzi? Ma come, Alessandro Milan, una notizia come quella di Vendolo che va in Canada, tu la dai così en passant? È una cosa che fa bene all'anima, per piacere, dalla con la adeguata cornice. Quel paese della Calabria, Andrangheta Marina, dove durante la processione della Madonna hanno omaggiato quel andranghettista ergastolano stranamente fuori di galera ai domiciliari, come dice il sindaco, che il problema non è l'andrangheta, ma altro, il problema è il traffico, un tipico problema del meridione, il traffico, questo è il problema. Guarda Milan, ho fatto tutto quello che mi stai indicando. Ti prego, non mi far sentire più la Lussana. Abbi pazienza, abbi pietà di me. Veramente, non essere veramente masochista. Ciao ciao, grazie tante. E mo come la mettiamo, cara Aurora? Ma io farei una petizione per vietare alla Lussara di andare a Radio 24, che già è una radio abbastanza legafobica. Ah, eccola lì. Dai, devi dire qualcosa a Parenza e Cruciani, che poi io glielo riferisco, poi dopo. No, io ascolto solo Milan e Nicoletti, quindi bella dichiarazione d'amore, ma insomma. No. Nicoletti anche in podcast. Nicoletti pure in podcast, proprio sì, ti fai del male incredibilmente, c'è una roba incredibile, questa la diamo a Gianluca, e no, non devi dire qualcosa a Parenzo, no, niente. Beh, così, ma ci stiamo noi a subire le discriminazioni da sempre, va bene. Ah, va bene, discriminati da Parenzo, non lo so, vabbè. Questo... Però ho portato buono, guarda, Padova, va bene così, dai. Infatti, ma cosa è successo? Ma ci avete querelato? No, ci hanno querelato. No, loro, te che c'entri? Loro, vabbè, insomma, la radio che deve, vabbè, chi lo sa. Allora, Mineo, sentiamomi qua, Vincino, attenzione, perché vedi, volano, tu dici, fai satira, ma poi dopo la gente si arrabbia, ci sono una serie di messaggi ancora oggi nei confronti di Vincino, ma non li leggo, perché quando si scade nell'insulto nei confronti di uno che fa satira da una vita non va bene. Allora sentiamo Mineo. Il Premier ha una larghissima maggioranza, mai vista, le larghe intese più la Lega. E allora qual è il problema? Che vuole impedire a qualcuno di noi di dire ma non siamo d'accordo in parte o in tutto? Ma persino Togliatti permise a Concetto Marchesi di votare contro di lui sull'inserimento in Costituzione dei patti lateranensi. Capito, Vincino, perfino Togliatti. Cita Togliatti. Ma è altro partito, altra storia, altra cosa. Lui proprio è rimasto là. Cioè, quelle, come dire, che cavolo c'entra quel Togliatti quel complice dello stalinismo peggiore, ma per dire che il dissenso uno per uno dentro l'hotel Lux, se li ammazzava uno per uno, ma poi per si scopava dire tutte le loro mogli, no, era ma dai, un delinquente abituale, ma pazzesco, no, Togliatti. Smettila, farò un film comico su Togliatti, sto smettila. Scrivendo un film comico su Togliatti, ecco, è per ecco dire qua, che il dissenso c'è, voglio dire, i voti ce li ha Renzi, e che non possono, capito, ma prima tutto, allora, Mineo l'ha fatto leggere Bersani, no, va sì, bene, perché per quattro invitati che gli ha fatto a Radio News, a Radio, come cavolo si chiama, quella radio là che la vedevano in 35, no, allora gli ha promesso questa cosa qua, e basta. Però come liquidazione ha avuto il Senato, era no? Rai News 24, aveva 25 ascoltatori, no? Sì, va bene, nell'etere in tutto il mondo. Però la questione che io voglio dire è che io ho seguito ieri un po' i dissidenti, ma quando a un certo punto, non so se avete visto, no, la conferenza stampa, Mineo faceva sempre vedere le vignette di Staino, mai le vignette lì. Ah, ecco, è per quello che ce l'hai su. Fermati, certo. Quando ho visto a un certo punto apparire nella conferenza stampa tra dei dissidenti una persona, cara Aurora Lussana, l'hai vista anche tu, vediamo se abbiamo la telepatia. A un certo punto è comparsa una persona. Perché ridi? No, mi fa ridere la sindrome di Matteotti che ha Mineo, insomma. Sì, esatto. Vabbè. Hai visto che c'era questa conferenza stampa in cui c'era una persona tra i dissidenti, tra Mineo, Minzolini, poi c'era una dei Verdi, la De Petris, a un certo punto, e a fianco c'era... Non l'hai vista? No. Alfonso Pecoraro Scanio. Quando ho visto apparire, ho detto vi prego, mettetegli un microfono, sentiamo che voce ha l'ex ministro Alfonso. Cosa ci stava a fare Alfonso Pecoraro Scanio lì in mezzo? Conoscevo il compagno io. Conoscevi il compagno, ma cosa c'entra? Ma poi cosa c'entra adesso? Quello ha fatto diventare senatore il fratello Alfonso Pecoraro Scanio. Alfonso Pecoraro Scanio. Va bene, però adesso qua devo bacchettare Aurora Lussana. Cara Aurora, tu non hai ancora letto i giornali. Ma certo che l'ho letto, ho letto qualche... C'è Milanese, Milanese sì. Arrestato, che dice i soldi, 400 milioni sbloccati per il MOSE da Tremonti, era un favore alla Lega. Lega, caro Vincino. Sì, sulla scorta di quello che emerge dagli interrogatori, quando ha vinto Zaia per omaggiare questa vittoria, Tremonti avrebbe sbloccato i soldi. Che Tremonti si avvicina alla Lega, questo non lo può. No, l'unica cosa di certo che c'è è che tutti quelli che hanno blindato sono o del PD o di Forza Italia, quindi sì, guarda, tutto il resto, i favori. Ce li hanno blindati loro, i suoi colleghi di partito, quindi sai... C'è Orsoni che è del PD, c'è il buon Milanese che insomma non vive ore difficili, quindi posso capire, fa le sue ricostruzioni. Ho capito, ma accusa la Lega, questo è... Ma quale accusa? Cioè, ma chi è che ci ha guadagnato? Scusa, quando tu fai un favore a qualcuno, qualcuno ci guadagna. Scusa, Zaia che ci avrebbe guadagnato? Non lo so, lo dovrà dire. Infatti, Zaia fa il governatore del Veneto, questi che chiacchierano sono sotto interrogatorio. Eccole, chiacchieroni, Vincino, sono dei chiacchieroni. Non lo so, io dico una cosa, però aspettami. Là, il problema era questo, ci dicevano se Venezia affonda, salviamo Venezia, e uno per salvare Venezia tutto fa, no? Questa era la cosa, poi magari cioè, praticamente sembrava l'unico modo per salvare Venezia questo qua e via, non è che... Vabbè, è questo. Vabbè, tra i tanti messaggi voglio salvare un Vincino santo subito di Rosanna che ci scrive alle 6:43 minuti. Allora. Oppure anche c'è un 10, 100, 1000 Vincino. Eccoci qua. Però alle 8 del mattino. Vabbè, alle 8 del mattino va bene, ti inviterò una volta alle 8 del mattino. Alle 8 del mattino c'ho i ministri, c'ho capisci? Ecco qua, siamo pari grado, no? Sì, certo. Se ho un ministro, posso avere. Istituzionale, ho le cariche istituzionali, i ministri e Vincino. Ah, la ricetta di Aurora. Aurora, cosa cucini? No, fa freddo, brodo di pollo. Ma ci sono 30 gradi al sud. 30 gradi a Palermo. 30 gradi, brodo di pollo. Quindi brodo di pollo, punto. Prendi un pollo, lo butti nell'acqua, un po' di aromi e via. No, quello è bollito. Vabbè, ho capito, fai il brodo di pollo. No, scusa, c'è una differenza fra l'esso e bollito, Scusa. La prossima volta ci spiegherai la differenza tra l'esso e bollito. L'esso e bulit. Va bene. Bravo. Ciao, alla prossima. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18 minuti e vi ricordo che anche oggi andremo in onda fino alle 9:30. Cari ascoltatori, parleremo un po' delle polemiche in Calabria dopo la processione Oppido Mamertina. Avremo ospite il ministro per gli affari regionali Lanzetta alle 8:15 e poi avremo ospite il sostituto della direzione antimafia Nicola Gratteri, il giornalista del Fatto Quotidiano Lucio Musolino, colui che è stato cacciato dal prete, dal parroco di Oppido, pare con le parole anche schiaffeggiate quel giornalista, dette dal pulpito. E poi invece dalle 9 parleremo un po' di esteri, quello che sta avvenendo in Iraq con l'avanzata di al-Baghdadi, questo nuovo leader autoproclamatosi del califfato di Mosul. E poi parleremo anche di quello che succede invece un po' lì vicino, avete sentito ancora in Medio Oriente e per la verità in Israele e Palestina, con ancora scontri nella notte e soprattutto rischio di situazione che può degenerare. Cercheremo di capire perché, cosa è successo negli ultimi tempi, prima l'uccisione, il rapimento e l'uccisione di tre ragazzi israeliani e poi l'uccisione di un ragazzo arabo bruciato vivo, e questo rischia veramente di far degenerare la situazione. Speriamo di no, ma la racconteremo. Ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. In questo martedì 8 luglio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore si occupa della Ecofin, l'Eurogruppo, Padoan, flessibilità, chi fa le riforme, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera in prima pagina il titolo lo conquista la lite a Milano tra magistrati. Milano, lite infinita in procura, ora il procuratore generale Minale accusa da Bruti liberati, cioè il procuratore capo, poca trasparenza. Per la Stampa invece, abusi, il mea culpa del Papa, e anche Avvenire, perdono per gli abusi, l'abbraccio del Papa alle vittime della pedofilia. Questo è il titolo di prima pagina del Quotidiano dei Vescovi. La politica invece per Repubblica, svolta sulle riforme, sì del Movimento 5 Stelle al PD, Renzi, vicini a un risultato storico. Per Repubblica, per il Messaggero, Senato, Grillo, apre a Renzi. Il Fatto Quotidiano invece, il Colle affonda il Senato, Grillo 10 sì per stanare Renzi. Per l'Unità, i grillini piegano Grillo, il Secolo XIX Renzi si affida a Berlusconi, mentre il Manifesto, le mie riforme, e c'è la foto di Giorgio Napolitano, ieri ha fatto una nota in serata il capo dello Stato. Il Giornale invece apre con un titolo francamente che un po' stupisce, assalti rom ai treni delle vacanze, emergenza sicurezza, questo è il titolo di prima pagina, scippi, aggressioni ai turisti in aumento del 20%, mentre Libero, ci costerà 600 milioni l'anno, servizietto civile, il governo prepara la riforma del volontariato. Ieri ne raccontava anche il Messaggero. Come detto, noi però parleremo di Calabria e partiamo proprio da lì, perché ancora ci sono molte polemiche, molti articoli di giornale di inviati ad Oppido Mamertina, che improvvisamente è diventata un po' l'ombelico d'Italia per questa processione con tanto di portatori della statua della Madonna che si sono fermati davanti a una via dove abita un boss agli arresti domiciliari, visto che ha 82 anni, condannato all'ergastolo. Sta scontando la pena a casa. Eccolo qui, a casa del boss dove la processione si è fermata. Tutto falso, il maresciallo vuole pubblicità. Questo è il titolo nel Corriere della Sera e anche Repubblica con Attilio Bolzoni, la figlia del boss insulta il carabiniere. Quello vuole solo far carriera. Il carabiniere è quello che ha abbandonato la processione. Povera Madonna, scrive Attilio Bolzoni su Repubblica a pagina 10. Povera Madonna che se la girano, se la rigirano come fosse una bambola per dare soddisfazione ai padroni del paese. Povera Madonna delle grazie che si flette, si umilia ai boss per volere dei ministri di Dio in terra di Calabria. Si è inchinata anche questa volta. Viva la Madonna, viva Don Peppe Mazzacatti, viva il parroco. La mafia si sa che è devota, ma quando ha la chiesa in casa lo è ancora di più, devotissima. Per raccontarvi com'è andata la processione di Oppido Mamertina, 342 metri sul livello del mare, 5.556 abitanti, 4 frazioni, 18 tra cappelle e santuario, 4 cosche di 'ndrangheta, dobbiamo cominciare per forza dai parenti. Così capiamo tutti e meglio come stanno le cose, così non c'è bisogno di fare tanti discorsi e tanta filosofia intorno a mafia, religione, santi e santisti, crocifissi, sicari, altari e giuramenti di sangue. Il trionfo dei festeggiamenti del 2 luglio ci spiega cos'è un paese dove c'è l'andrangheta e dove c'è una chiesa. Raccoglie in una sola e semplice immagine tutto quello che abbiamo detto e scritto in queste settimane dopo la visita in Calabria di Papa Francesco. Chi era alla testa della solenne cerimonia all'angolo tra via Ugo Foscolo e corso dell'Aspromonte? Chi era tutto bardato con talare nera, cotta bianca e stola davanti ai portatori che facevano ondeggiare la statua di gesso a un passo dal vecchio patriarca Giuseppe Mazzagatti? Un prete. Un prete che in molti qui considerano un benefattore, un prete che è cugino dei Rustico, i Rustico che sono gli alleati storici dei Mazzagatti in una faida infinita che ha terrorizzato questo paese. Parroco di Tresilico, Don Benedetto Rustico ha guardato immobile la Madonna che si piegava leggermente verso il balcone di quel palazzo di tre piani. Un secondo dopo, il maresciallo dei carabinieri Andrea Marino ha richiamato i suoi due brigadieri lasciando il corteo per rinchiudersi nella caserma. Ci sono parenti e parenti, e ci sono cugini e ci sono i figli e anche i fratelli. Don Peppe Mazzagatti, boss di Oppido, condannato all'ergastolo per omicidio e agli arresti domiciliari per motivi di salute, ha un figlio che si chiama Rocco, che è anche lui in carcere. Cosa ha fatto nella sua vita prima di mettersi al servizio della cosca? 8 anni di seminario a Reggio Calabria. Vabbè, io l'avevo detto ieri, quando oggi Attilio Bolzoni lo scrive con la sua solita penna molto molto attenta a quello che avviene nelle logiche mafiose in alcune regioni. Ieri mi aveva colpito, e quando io dicevo su Twitter sveglia, tante parole, uno è il cugino dell'altro, cioè il parroco è cugino del boss in questione. Come scrive Bolzoni, che altra filosofia e quante altre chiacchiere e parole dobbiamo spendere? Non molto. C'è comunque un'intervista alla presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, intervistata da Avvenire: fede strumentalizzata, serve fermezza, bisogna cambiare. Ovviamente molto grave, sconcerta questo episodio, l'ennesima prova di una realtà che esiste da tanto tempo. È chiaro che l'andrangheta usa la chiesa, la religione, la fede, ma qualche volta la chiesa si è fatta usare, dice Rosi Bindi. E il capo dei vescovi calabresi ora dice: fermate le processioni, indaga la procura antimafia, sotto accusa, dice la stampa, finisce il sacerdote, per l'appunto, colui che dice nessuna connivenza con l'andrangheta, anzi Don Benedetto Rustico dice: a saperlo avrei cambiato percorso della processione. Ma come a saperlo? Siete cugini. Vabbè, comunque ne parleremo. Alle 8.15 avremo ospite appunto il ministro Carmela Lanzetta, ministro affari regionali e calabrese peraltro, e ricordate, da sindaco fu anche minacciata più volte. E poi avremo ospite Nicola Gratteri, Lucio Musolino del Fatto Quotidiano. Allora, alleggeriamo un attimo con queste due notizie prima di andare in pubblicità. Il Secolo XIX fa una pagina con Francesco Margiocco a dire: l'interdizione non ferma il professor Berlusconi. Ma com'è possibile questa cosa? Ha una condanna, ma l'ex premier è tra i docenti di un corso universitario. Nonostante la condanna definitiva per frode fiscale, Berlusconi si dedica a una vecchia passione, l'università telematica. Berlusconi farà da professore come docente del corso La Politica 2.0, che si terrà da ottobre all'unipegaso.it, una delle 11 telematiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione. E il Secolo XIX pone questa domanda: può l'ex presidente del Consiglio, interdetto per 2 anni dai pubblici uffici, insegnare? Una domanda che forse andrebbe rivolta alla Procura della Repubblica di Milano. Il corso, valore 60 crediti formativi, è in calendario da prima che la Corte di Cassazione confermasse la condanna. Partirà a ottobre, ci saranno docenti indicati nel programma, compreso l'ex presidente del Consiglio. E parlerà di questo, potrà farlo. E poi la notizia che mi ha più incuriosito oggi è il complotto delle mutande denunciato da Renato Vallanzasca. Renato Vallanzasca, il bel René, Forse lo sapete, è stato arrestato colui che ha tanti ergastoli sulle spalle, ma ha delle pene alternative al carcere, può uscire di giorno. È stato arrestato di recente in un S lunga a Milano perché è accusato di aver rubato un paio di mutande. Lui dice al processo: il complotto delle mutande, sono stato incastrato, contro di me un complotto. L'ex bandito più ricercato, racconta il Fatto Quotidiano con Davide Milosa, pagina 9, si è giustificato così: ero a fare la spesa, stavo comprando mortadella, cipollotti, insalate, salmone, anguria. In quel momento è arrivato un ragazzo che mi ha chiamato zio Renato. Zio Renato, tre volte, dicendo che conosceva mia moglie. E poi ha detto: ti porto io la borsa. A quel momento io ho preso la mortadella. Lui ha detto: beh, dobbiamo andare alla cassa. Insomma, l'accusa è che il ragazzo che accompagnava Vallanzasca, che ha rubato il paio di mutande e ha portato fuori la borsa di Vallanzasca, insomma, mi hanno incastrato, stavo solo facendo la spesa, mutande rubate a mia insaputa, ce n'è davvero per creare la notizia quasi del giorno sul Fatto Quotidiano. Vallanzasca e il complotto delle mutande. Ora la pubblicità, poi riprendiamo dalla politica. Hai solo un difetto: se ti chiamavi Alessandro Juve eri perfetto. Sì, andava l'anagrafe subito, cambiavo tutto. Va bene. Non riuscirà a mettermi di cattivo umore, caro ascoltatore, anzi un grande abbraccio alle 7:35 minuti. Allora, la politica ieri ha vissuto una giornata abbastanza convulsa. Abbiamo iniziato proprio con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, qui, che al mattino diceva: sì sì, alle 15 ci incontriamo con il PD, è tutto organizzato, sicuramente non salterà. Tempo mezz'ora, finita la trasmissione, ed è saltato l'incontro. E che è successo? C'è stato un grillo che si è sfogato, lebetino, anzi lebetone, banda di vigliacchi, questo nei confronti di Matteo Renzi. Però, mentre Grillo diceva così, in qualche modo l'ala più moderata, lo stesso Di Maio, pare lo stesso Casaleggio, racconta dei giornali, ha convinto invece i grillini al dialogo. E dunque dall'anatema di Beppe Grillo si è arrivati in serata invece ai 10 sì. Sapete che una delle condizioni era che il PD voleva che il Movimento 5 Stelle desse un sì preventivo ai 10 punti della legge elettorale, una roba noiosissima, ma che trovate tutta esplicitata pagina 2 del Fatto Quotidiano. Eccoli 10 sì, le risposte di Beppe per stanare Matteo, per dire i punti, per quanto sono noiosi. Il PD dice: volete un vincitore sempre, l'unico modello che assicura questa è la legge che assicura un premio di maggioranza al primo o al secondo turno. E il Movimento 5 Stelle replica con un sì. Poi, secondo punto, siete disponibili a assicurare un premio di maggioranza per chi vince al primo o al secondo turno non superiore al 15%. Terzo punto, siete disponibili a ridurre l'estensione dei collegi. Quarto punto, siete disponibili a far verificare preventivamente la legge elettorale dalla Consulta. E vabbè, e questi erano i quattro, poi i 10 punti molto tecnici sulla legge elettorale da parte del Partito Democratico. E sono arrivati i sì in serata dopo e nonostante lo sfogo di Beppe Grillo, quindi un Movimento 5 Stelle che viaggia su due binari, un Beppe Grillo che si sfoga, come ha detto ieri poi lo stesso Di Maio, ospite da Enrico Mentana, e invece una fase più dialogante, un'ala più dialogante del Movimento 5 Stelle. Il retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 1 di Repubblica e poi a pagina 3 continua con Matteo Renzi. Renzi si sente più forte. Ora i grillini sono in partita, l'Italicum resta la bussola. Scrive Renzi: al di là del merito, la notizia positiva è che i grillini sono scesi dal tetto. Ricordate il tetto come simbolo della protesta a oltranza. Stanno nella partita e questo è un bene, perché nonostante tutto ho sempre fatto sul serio con loro, dice Renzi ai suoi. E poi ancora sull'Italicum si spera di arrivare a dopo l'estate con l'Italicum, mentre il Senato confida di fare tutto il primo sì entro il 20 luglio. Disegno di legge sul Senato, titolo quinto, approvazione. Ma io non caccio nessuno, questo sia chiaro, perché ci sono i dissidenti con cui ha a che fare Renzi. A proposito di sì al Senato, ieri è arrivata questa nota di Napolitano, è urgente superare il bicameralismo paritario e soprattutto il confronto non sia inconcludente. Un Napolitano che dice sulle riforme basta rinvii. Come racconta il Sole 24 Ore con Lina Palmerini a pagina 5, il capo dello Stato invita dopo tante discussioni a votare sul Senato, tanto che il Manifesto mette Giorgio Napolitano in prima pagina dal titolo «Le mie riforme». Della riforma del bicameralismo si è discussa abbastanza, è tempo di votare. In questo modo, scrive il Manifesto, il Napolitano mortifica le ragioni dei dissidenti. Insomma, il titolo del Manifesto di Andrea Fabozzi, l'articolo è «Riforme, Big George ha detto stop». Come dire, ora si voti. Come chiama Renzi i dissidenti, soprattutto Mineo e Minzolini, la dinastia Min? Oppure Mineo, Minzolini, Mucchetti, accomunati tutti dal fatto di essere giornalisti, sono i giornalisti contro il Senato. Li chiama così. Sta di fatto che staremo a vedere se questa riforma del Senato arriverà con un primo sì. Da domani credo si voti proprio al Senato stesso. Certo, c'è anche la rabbia in Forza Italia, come racconta il Corriere della Sera, strategia e conti del partito. Sale la rabbia in Forza Italia, in bilico la riunione dei gruppi di oggi, Berlusconi in campo per convincere gli indecisi, malumori anche per la richiesta di contribuire ai bilanci, chiedono 30-40 mila euro a parlamentare, i tesorieri di Forza Italia. Insomma, un Berlusconi, racconta Paola Di Caro, che deve fronteggiare questa situazione, la situazione giudiziaria, oggi c'è anche il verdetto che arriva a Mediatrade sul figlio Pier Silvio, ha anche problemi interni, oggi Francesca Pascale andrà a ritirare la tessera onoraria della sezione cittadina di Napoli dell'Arcigay dopo aver preso già la tessera dei Gay Lib, e anche su questo scrive il Corriere della Sera Berlusconi mugugna, ha dei problemi anche in famiglia. Insomma, diciamo che anche Forza Italia non va benissimo. Se le riforme del Senato le attendiamo, eccolo qui che trovo un titolo in prima pagina del Messaggero che mi fa un pochino sobbalzare sulla sedia. Province, riforma al palo. No! Ma come? Le province. Eccolo qui, prima pagina. Manca il decreto attuativo che deve trasferire le competenze. No! Nella 62esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, a pagina 2 del Messaggero. La scadenza, dovevano essere prima abolite, poi ridotte, infine sono state riformate. Le province hanno perso la caratteristica di enti sottoposti al voto dei cittadini, ma per il resto non è cambiato nulla. Oh, lo scrive il Messaggero, pagina 2, con Luca Cifoni, province, riforma al rallentatore. Ma come? Ma allora faccio bene un pochino a continuare a contare. La 62esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Forza, forza che ce la facciamo. Dico forza anche a Mauro Meazza, dai che ce la facciamo. Mauro, forza. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Ma infatti ti rispondevo te stesso su Twitter, sì? Perché noi siamo molto digitali. Infatti devo dire anche i dati sulla diffusione del quotidiano digitale ci confortano oggi, ne riferiamo sul Sole 24 Ore, perché effettivamente manca il decreto, guarda un ma po'. Porca miseria! E sul più bello ti manca sempre il decreto. Potrebbe essere anche una scusa che si comincia a usare, non so, sarei venuto volentieri a questo incontro, ma purtroppo mancava il decreto. Come quel famoso presidente di calcio a cui mancava l'amalgama, la squadra, disse, dov'è questa amalgama? Compriamolo, amalgama. Ecco. Comunque manca il decreto, quindi come scrive anche il Sole 24 Ore, province e dipendenti per ora non si spostano, e il per ora devo dire già è una manifestazione di ottimismo in qualche modo, però vabbè, insomma, questo adesso senza voler essere troppo disfattisti. Lo sai che i consulenti del lavoro minacciano di scioperare contro l'INPS? Sì, lo scrive Matteo Prioschi oggi sul Sole 24 Ore, perché l'INPS c'è tutta questa trasmissione del cosiddetto DURC, che è una sigla su cui tu forse non sei prestatissimo, ma te la spiego, è il documento unico di regolarità contributiva ed è abbastanza importante. Bene, ci sono gli invii del DURC che sono un pochino non adeguati, non aggiornati. Allora i consulenti del lavoro hanno detto, beh, però sentite, o ci mandate della roba fatta per bene, o se no noi davvero tutta l'attività di gestione digitale non ve la facciamo e ci mettiamo sciopero, che è una cosa un po' curiosa per una categoria, ma dimostra, come si diceva una volta, il malessere. Poi ti volevo dire, guarda che le banche svizzere, lo scrive oggi Sole 24 Ore, le banche svizzere stanno stringendo le maglie sui prelievi e sui bonifici verso l'estero, quindi quando tu ti fai inviare le somme nei tuoi conti cifrati altrove nel mondo, ecco, sappi che lì si sta un po' stringendo con maggiore attenzione. Vabbè, prendo ecco, fallo per favore con una maggiore attenzione, specialmente appunto per i sontuosi introiti che percepisci dal lavoro di rassegnista, di rassegnato, non so come si dice. Sì, c'è così come contratto, sono rassegnista. Sì. Sei rassegnista o rassegnato? Sì, sì. Rassegnista, no, rassegnista. Rassegnista, ok. No, ecco, poi volevo dirti invece, per il condominio, so che tu sei attento, il martedì c'è la pagina di condominio, c'è una interessante precisazione della Cassazione sui danni dal terrazzo, dal così si chiama lastrico solare, in uso esclusivo, molto importante, e poi anche la possibilità di installare le colonnine per ricaricare le auto elettriche in cortile. Questo non mi sembra così una cosa. Per incentivare l'uso dell'auto elettrica, infatti. Ecco, poi invece dall'auto elettrica passiamo sempre sul tema di trasporti agli aerei, perché ti inviterei a leggere Gianni Dragoni su Alitalia Etihad e il complesso movimento per cui Etihad compra a parte però tutta la società dei punti mille miglia. E dopo e le poi... auto, dopo le auto elettriche e gli aerei, cosa ci rimane, caro Mauro? Non ci rimane le macchine tradizionali. In fondo stiamo. No, volevo prima dirti, guarda, che forse estendono il bonus mobili anche per gli arredi degli alberghi. Comunque trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi. Ma effettivamente hai ragione, abbiamo parlato delle auto elettriche, abbiamo parlato degli aerei, e allora a questo punto traffico. Alessandro Milan, le mani sul volante dell'informazione. Direi proprio di sì, le mani sul volante. E allora c'è questo giallo legato al Siope. Sapete che ieri abbiamo raccontato questa piattaforma informatica nel quale vengono registrate tutte le uscite dello Stato dagli enti che sono obbligati a inserirli quotidianamente, e che da ieri, racconta il Messaggero, è online, è accessibile a tutti. Tutti gli cittadini italiani con un click possono vedere quanto le amministrazioni locali spendono giorno per giorno in questa banca dati che finora è custodita gelosamente dalla ragioneria. Qualcuno ieri mi ha scritto: ma è tutto vuoto, non si può vedere nulla. Non è che si può vedere dato per dato. Quando un ente inserisce un dato, quotidianamente devono farlo, allora questo dato è visibile a tutti. Ma anche qui c'è una polemica che sui giornali, perché Libero fa con Franco Bechis proprio in prima pagina: già pronto il sistema che controlla le spese ma nessuno lo aziona. Anche Libero scrive: è un bluff, il suo nome tecnico è Cruscotto. L'ha inventato la SOGEI, si chiama appunto Siope, ma fino a questo momento, grazie al sistema e alle fatture elettroniche, potremmo sapere in tempo reale l'utilizzo di ogni centesimo pubblico, ma l'esecutivo inspiegabilmente si ostina a ritardare il via libera allo strumento. Lo Stato dunque nasconde quanto spende, scrive Bechis a pagina 2. E invece il Messaggero e il Quotidiano Nazionale hanno le cifre prese dal Siope. O allora qualcuno qua o è poco informato o, come dire, sa usare poco lo strumento, non lo so, è un mistero. Leggete il Messaggero, Andrea Bassi per il secondo giorno racconta alcuni dei dati presi proprio dal Siope. Dai traslochi alle pulizie, le uscite milionarie dello Stato. Volete sapere per esempio quanto spende lo Stato, e tenete ben strette le mani sul volante, quanto spende lo Stato per assistere psicologicamente e religiosamente i dipendenti pubblici? 1.600.000 euro è rotti. C'è pure questo, scrive il Messaggero, nel mare magnum degli 800 miliardi di spesa pubblica. E ancora invece sul Quotidiano Nazionale altre cifre: 211 milioni di euro per traslochi e facchinaggio, Di questi solo 177 milioni spesi per traslochi e trasporti a favore del personale. E ancora servizi di pulizia e lavanderia nei primi sei mesi del 2014, 43,9 milioni. L'anno scorso sono stati spesi addirittura 409 milioni. Ecco, cioè già queste cifre, 409 milioni in un anno, l'anno dopo in sei mesi 43 milioni, quindi diciamo raddoppiando per 86 milioni, balla una cifra da un anno all'altro di 300 milioni di euro. Com'è possibile? Questi sono misteri. Al 30 giugno 2014, sempre dati presi dal SIOPE, quanto si è speso per tutti i servizi e beni alimentari, mensa, buoni pasto, ristorazione per personale di leva, civile e militare da parte dello Stato in sei mesi? 41,4 milioni di euro. Quanto si è speso invece l'anno scorso in carta per gli uffici pubblici? E vive la digitalizzazione, in carta 1.670.000 euro. Va bene, un'altra cifra la troviamo invece sul Corriere della Sera, una cifra interessante, ed è questa: le rimesse dei migranti, cioè i soldi che gli immigrati che stanno in Italia spediscono legalmente alle loro famiglie d'origine. La Banca d'Italia, fa sapere il Corriere della Sera con Antonella Baccaro nell'articolo a pagina 10-11, dice che ammontano a 5,5 miliardi di euro quelle dell'anno scorso, le rimesse del 2013, 5 miliardi e mezzo, ciò che gli immigrati stranieri hanno inviato alle loro famiglie d'origine. Voi pensate che sia una cifra molto alta? Beh, pensate che è la cifra più bassa degli ultimi sette anni e corrisponde alla stessa cifra attualizzata che gli emigranti italiani inviavano nel nostro paese, in Italia, nel 1968. Quella cifra, se l'attualizziamo in valore, sarebbe 5,1 miliardi di euro. La crisi soprattutto ha ridotto le rimesse straniere di 1,3 miliardi in un solo anno, quindi l'anno scorso erano il 20%, o meglio due anni fa erano il 20% in più rispetto all'anno scorso. A testa ogni emigrato ha mandato mediamente a casa in 12 mesi 1.250 euro, il 25% in meno rispetto al 2012, 800 euro in meno rispetto al 2007, quando la cifra superava i 2.000 euro. Segno che la crisi si vede anche da qui, calano le rimesse dei migranti. Oh, tranquilli tutti, Nicky Vendola rimane in Italia. Ieri è apparsa questa notizia: vuole emigrare, andare in Canada, è deluso dalla politica, vuole seguire il suo compagno in Canada. Scrive l'Unità a pagina 4, Vendola emigrato in Canada, ma va, fa molto freddo. Ho letto un racconto a me sconosciuto sul mio stato d'animo di un leader depresso pronto a partire. Non è così, il vostro presidente di regione non è depresso, non ha fatto la valigia e poi in Canada fa troppo freddo, quindi rimane in Canada. Ci sarebbe molto, molto da leggere ancora, ma il tempo è sempre più tiranno. Allora leggerete, e se volete, tanti articoli sul mea culpa del Papa nei confronti delle vittime della pedofilia dei sacerdoti. Soprattutto vi segnalo l'articolo più interessante, secondo me, quello di Paolo Crecchi, a pagina 1 e 2 del Secolo XIX. Albenga si concentra sui tanti abusi, scrive il Secolo, registrati in Liguria. Scandali in Liguria e resa dei conti nel mirino, soprattutto la diocesi di Albenga. Le parole del pontefice potrebbero fornire il pretesto per risolvere casi in sospeso. Forse il Vaticano potrebbe anche intervenire. Paolo Crecchi, in prima del Secolo XIX. Concludo con l'articolo La carta costa, è più che altro un titolo. E oggi va a Libero l'articolo di Simona Verrazzo, la notizia è anche interessante, l'acquisizione da parte di un'azienda tedesca di un'azienda italiana, l'azienda che produce la scopa Pippo. Ma è il titolo di Libero: Tonchita compra Pippo, l'Italia va a scopare a Berlino. Ma Libero, ma no, ma dai, ma su, ma come? Ma perché? 24 mattino. Sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sulla processione che c'è stata a Oppido Mamertina, processione religiosa nella quale alcuni portatori hanno fatto l'inchino, come si chiama, con la statua della Madonna verso la casa dove agli arresti domiciliari un boss dell''Ndrangheta si è scatenato un putiferio di dichiarazioni. Intanto la famiglia che dice: ma quale 'Ndrangheta? Non c'è nessuna 'Ndrangheta. E poi dicendo: va così da anni, adesso si svegliano. Anche quel maresciallo dei carabinieri che ha abbandonato la processione per anni non ha fatto nulla, addirittura l'accusa di dire: si vuole fare pubblicità con noi, va dal Grande Fratello. Questi i familiari del boss che sconta gli arresti domiciliari lì, visto che è malato e anziano. Ma su questa vicenda indaga la direzione distrettuale antimafia, la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi dice: è una vergogna, la Chiesa promette di prendere provvedimenti. Insomma, il rischio, il timore che non ci siano il solito fuoco di paglia di dichiarazioni e poi le cose scemano un po' nell'interesse e non ci se ne occupa più come si dovrebbe. Ne vogliamo discutere con un ministro che è stato anche sindaco in Calabria, è stato minacciato, è stata sotto scorta per le minacce subite da 'Ndrangheta, è il ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ministro. Buongiorno a tutti. Senta, che lei è stupita da questa processione che ha avuto questo momento, perché non è la prima volta, se ne è discusso molte volte in passato. Io condanno fortemente questo episodio, e soprattutto adesso, dopo le parole forti, finalmente, del Papa in Calabria. Quindi sono assolutamente parole di condanna e parole di plauso invece ai carabinieri che si sono accorti dell'accaduto e che hanno lasciato la processione e che hanno denunciato la cosa. L'unico speranza è questa bella reazione che c'è stata italiana, in modo tale che questi fenomeni non restino più nel chiuso di un piccolo paese, ma diventino interesse di tutti, perché solo così, conoscendo, si può avere la possibilità di intervenire e quindi di cambiare le cose. Lei però come sa non è la prima volta che accade che processioni finiscano così, però è importante, dice, in questo momento che non siano, come dire, che abbiano un'eco mediatica, anche che se ne parli, perché anche da queste cose si può iniziare una lotta alla 'Ndrangheta, una lotta culturale più che altro. Io credo che parlare serva proprio per conoscere le cose e per poterle cambiare, per cui il mio auspicio è che nasca in Calabria stesso un dibattito pubblico intorno a questo episodio, in modo tale che possa aiutare la comunità di Oppido ad aprire una discussione, a lavorare tutti insieme, soprattutto le istituzioni, la scuola, le associazioni culturali, proprio per andare nelle migliori determinazioni possibili per trovare il bene comune. Senta, la Chiesa sta pensando di sospendere le processioni, è una decisione, ovviamente, essendo processione religiosa, che spetta alla comunità ecclesiastica. Secondo lei sarebbe auspicabile? La Chiesa naturalmente ha tutti i mezzi culturali per poter decidere nel miglior modo possibile. Io credo che fortemente si debba aprire invece un dibattito tra le parti sane della società, in cui ci entrano le associazioni e soprattutto tutti coloro che lavorano nel campo dell'educazione, perché io credo che alcuni fatti, una volta che siano denunciati, la magistratura fa il suo lavoro. È un, devo dire, il mio applauso veramente alle forze dell'ordine che ogni giorno operano in Calabria, ai carabinieri che hanno agito in questa maniera e alla magistratura. Insieme però bisogna educare, quindi l'auspicio a migliorare quello che riguarda l'istruzione, quello che riguarda il lavoro delle scuole, e un dibattito pubblico sereno, in modo tale che veramente i calabresi imparano a conoscersi e a cambiare le cose. Però le chiedo, lei è stata sindaco a Monasterace, è stata appunto anche minacciata dalla 'Ndrangheta, secondo lei è davvero possibile, cioè si metta nei panni di uno di quei portatori della statua, è davvero possibile evitare di fare un qualcosa che magari qualcuno ti chiede di fare? Possibile, è obbligato. Siamo obbligati. Obbligati dal punto di vista della legalità, ma possibile vivendo in quella situazione? Non c'è dubbio. dubbio, o le fai le cose e ti metti dalla parte giusta oppure non le fai, bisogna sempre scegliere ogni giorno. Quindi io dico, in aiuto a coloro che magari sono, possono essere minacciati o così, per quello serve quella reazione italiana d'appoggio, però è chiaro, deve essere così, insomma le scelte si devono fare, altrimenti non si cambierà mai e ne subiremo sempre le conseguenze. Sa che appunto i carabinieri hanno abbandonato la processione, non ha abbandonato la processione il sindaco, qualcuno nel suo partito ha anche chiesto le dimissioni del sindaco, secondo lei si dovrebbe dimettere? Il sindaco deciderà per la sua strada, per quello che riterrà opportuno fare, non discuto e non parlo prima d'aver, a me interessa soltanto dal punto di vista della reazione popolare, io credo che sia la cosa che in questo momento interessi di più è quello che pensa la comunità di Oppido Mamertina, la comunità di Oppido Mamertina e tutta la comunità calabrese deve poter scegliere la strada giusta, perché oggi è possibile e poi io sono dell'avviso che veramente siamo a un punto di rottura, o adesso o mai più. Quel carabiniere che ha deciso di abbandonare insieme ai due brigadieri richiamati, lui, secondo lei non rischia di rimanere un pochino solo? Guardi, è per questo che sto parlando di questa reazione popolare e di questa reazione che dobbiamo avere. Ma tra tre giorni però la reazione sarà un po' svanita, sarà un po' l'attenzione scemerà, come dico io, no, su questa vicenda. E allora è compito nostro tutti, tutte quelle persone consapevoli, è compito nostro tenere l'attenzione alta e appoggiare l'azione del maresciallo e dei carabinieri di Oppido Mamertina. Però lei dice il sindaco decide per sé, e per carità, è una sua scelta, ma un sindaco in quella situazione che doveva fare secondo lei? Doveva andarsene? Certo. Doveva andarsene anche lui? È chiaro. Quindi voglio dire, conseguentemente si potrebbe dire sarebbe più giusto dimettersi. Adesso questa è una decisione che spetta a lui e alla sua giunta, comunque dopo aver valutato i fatti, ed è una decisione che magari, per cui magari ci vuole una seria riflessione. Comunque quando uno si accorge di un'illegittimità è chiaro che deve assolutamente in quel momento abbandonare e dare un segno, perché altrimenti non facciamo mai una scelta profonda e non scegliamo mai la strada giusta. Siamo un sindaco con la fascia tricolore in quel momento. Rappresenta lo Stato sul territorio. E quindi doveva abbandonare anche lui, se si è reso conto il carabiniere, doveva abbandonare anche lui la processione. Senta, io sono di questo avviso, un sindaco porta quella fascia perché rappresenta lo Stato nei territori e a lui è demandata proprio il momento, la scelta, naturalmente soprattutto la scelta e l'apertura di un dibattito serio, senza polemiche, su quale strada in Calabria bisogna che le istituzioni prendano insieme alla parte sana della società. Senta Ministro Lanzetta, oggi Attilio Bolzoni fa una lunga ricostruzione di quello che è successo, un po' quello che dicevo anch'io ieri, tante parole, tanti discorsi, ma tante volte basta leggere un fatto, il fatto per esempio che il parroco di Oppido Mamertina è cugino del boss verso il quale è stata inchinata la statua della Madonna. Voglio dire, non basta questo, al di là di tante discussioni, a capire il contesto. Questo l'ho letto ieri sera, però io sono dell'avviso che a volte anche se si hanno delle parentele, le parentele non si scelgono, si può fare la cosa giusta, per cui non condannare a priori soltanto perché uno è parente, ma condannare con i fatti. Benissimo, allora i fatti sono questi, a questo punto anche il parroco deve avviare una seria riflessione e la Chiesa una serissima riflessione. Mi faccio fare due domande che esulano un pochino da Oppido Mamertina, però una è sulla questione del Consiglio regionale della Calabria. Nonostante le dimissioni del Presidente della Regione Scopelliti, c'è stata anche una condanna nei suoi confronti, il Consiglio regionale della Calabria spiega ieri anche un po' incredibilmente Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, continua a rimanere in carica. Intanto come questo è possibile? Immagino che sia possibile dal punto di vista della legge, e che ne pensa lei? Dovrebbe dimettersi anche il Consiglio? Le dico subito, perché sulla Calabria in questo momento, la Calabria veramente ha delle sofferenze che sono inaudite e non merita di vivere nel limbo delle incertezze e dell'autodistruzione. Quindi io penso veramente che allora, dal punto di vista diciamo legislativo, è stato votato uno statuto per cui i consiglieri possono rimanere in carica fino alla proclamazione degli eletti, sono quindi prorogati i poteri del precedente consiglio fino al nuovo e quindi la giunta può rimanere in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente, e questo è dal punto di vista dello statuto che è stato votato e quindi non si può intervenire dall'esterno, ma la logica, il bisogno, la considerazione di quello che sta vivendo adesso la Calabria imporrebbe a tutti i consiglieri le dimissioni. Io invito fortemente tutti i consiglieri regionali alle dimissioni, perché i calabresi, a mio avviso, proprio in questo momento di grande sofferenza, hanno bisogno di un governo regionale autorevole nel pieno delle sue funzioni. Però è una sorta di invito che uno può seguire oppure no, la legge gli consente di stare lì, diciamo. Lei però direbbe è meglio un nuovo consiglio regionale, essendo decaduto. Io dico che serve un'azione politica molto forte, perché in questo momento molti calabresi, ha visto a Reggio Calabria ci sono state le primarie del Partito Democratico che si sono svolte in maniera normale, è stato votato Giuseppe Falcomatà e tutte e quattro coloro che hanno partecipato alle primarie hanno presentato dei programmi e sono delle ottime persone, e quindi c'è uno che queste primarie ci danno un po' di speranza su Reggio Calabria. Adesso io credo che serva una forte rivolta morale, proprio a cominciare da coloro che hanno la responsabilità di governo, ed è necessario adesso, proprio adesso, perché la Calabria sta soffrendo. La Calabria è in recessione, mentre nelle altre regioni d'Italia si vede un po' di luce e di ripresa, per cui proprio adesso io credo che dobbiamo essere più determinati e assumerci tutte le responsabilità. L'ultima domanda è questa: io so che lei ha incontrato il nuovo presidente dell'Unione delle Province, si occupa anche di questo tema, ha ereditato il provvedimento di Delrio sull'abolizione delle province. Sa che io qua conto le settimane decisive per l'abolizione delle province, anche in maniera un po' ironica ma speranzosa. Oggi il Messaggero dice che mancano i decreti attuativi sulla questione delle province. È vero? E quando ci allora, sarà? Sì. Allora, oggi è 8 luglio e c'era questo termine che non è perentorio per quanto riguarda l'emanazione del DPCM che assegna le funzioni. Allora però presumibilmente posso dire che entro la fine di questo mese di luglio si possano emanare questi decreti. Entro la fine di luglio. Sì, tutti i passaggi che sono previsti dalla legge Delrio, che regola la vita delle vecchie province e dei nuovi enti, devono nascere il 1 gennaio. I presidenti delle province dal 1 luglio sono diventati commissari secondo la norma e devono rimanere in carica fino alla fine dell'anno. Le risorse finanziarie a loro disposizione sono quelle che avevano già nel bilancio di quest'anno per svolgere le stesse funzioni che avrebbero dovuto svolgere se non ci fosse stata la legge. Comunque insomma, i decreti attuativi entro fine luglio, almeno questa è la speranza che ci sia. Io diciamo che siamo a buon punto. Siamo a buon punto. Non è solo una speranza, è un lavoro effettuato. Io nel ringraziarla, ministro Lanzetta, sa che ieri Rosario Fiorello, insomma, ha lanciato questo hashtag, non so se lei segue Twitter, io non mi inchino, lei approva. Io insomma, non mi inchino, approvo assolutamente. Intanto io la ringrazio per essere stata con noi, Maria Carmela Lanzetta, voglio ricordare, il ministro per gli affari regionali, e noi dopo la pubblicità avremo ospite Lucio Musolino, che è un giornalista del Fatto Quotidiano, colui che è stato mandato fuori, allontanato anche dalla Chiesa, con le seguenti parole pronunciate dal parroco. Il parroco è sempre quello di cui stiamo parlando, quello che era in testa alla processione, avrebbe detto là quel giornalista in fondo alla chiesa, schiaffeggiatelo. E ci sono anche immagini di fedeli che allontanano appunto Mussolini. Avremo ospite anche il sostituto della direzione antimafia Nicola Gratteri, grande esperto di tematiche di lotta all'andrangheta, per cercare di capire insomma quello che sta succedendo. Avete capito, avete sentito, ci vuole un dibattito culturale, ma ci vuole anche una risposta, immagino, da parte dello Stato nei confronti di quello che è successo a Oppido Mamertina. Dice anche il ministro Lanzetta, il sindaco avrebbe dovuto abbandonare la processione. 24 mattina. Allora, dopo aver avuto il ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, che dice il sindaco, beh, deve dimettersi, questo decide lui. Certo, non doveva rimanere lì, non doveva rimanere in quella processione, doveva andarsene, come ha fatto quel carabiniere alla processione Oppido Mamertina. Ripartiamo da qui. Il numero per le vostre chiamate è 800 24 00 24. Voglio salutare il sostituto alla direzione antimafia Nicola Gratteri alla Reggio Calabria. Buongiorno dottor Gratteri e ben ritrovato. Così come voglio salutare Lucio Mussolino, collega del Fatto Quotidiano. Buongiorno Lucio e benvenuto. Ci senti? Eccoci qua. No, la linea va ripristinata, adesso lo recuperiamo. Allora, Nicola Gratteri, intanto le chiedo, chi è questo boss di cui si è parlato, Mazzagatti, che a 82 anni sta scontando l'ergastolo in casa per motivi di salute, anche molto anziano? Appunto, come le dice, è un ergastolano, quindi è una persona che ha commesso un omicidio. È una sentenza di condanna definitiva. Due sono le osservazioni. Intanto lui, ci sono almeno 5-6 parenti tra linea retta e collaterale detenuti per imputazioni gravissime, quindi si tratta di un soggetto appartenente ad una famiglia mafiosa. Il fatto che, anche se per 30 secondi l'avara si sia fermata o abbia fatto una rotazione su se stessa, l'abbiano fatta fare da parte dei portatori, vuol dire che è una persona, tra virgolette, di rispetto, è una persona che ancora ha potere reale e potere contrattuale. Ecco, ci aiuta a far capire, quindi perché quindi solo per questo è pericoloso. Ecco, ci aiuta a far capire cosa c'è in quel che significato c'è in quel simbolico gesto di fermarsi e inchinare o comunque girare la statua della Madonna verso la via dove lui abita. È un atto di ossequio, un atto di sottomissione, è il riconoscimento della sua leadership su quel territorio, e il riconoscimento che lui è un uomo che conta, è un uomo di rispetto, per usare un linguaggio mafioso, è un uomo che ha potere reale. Il essere mafioso non è che bisogna fare come Yuri Checchi, saltare agli anelli. Uno può anche stare su una sedia a rotelle e comandare con gli occhi, con uno sguardo, con mezzo sorriso, con una smorfia, può anche decidere la morte di una persona. Non mi riferisco a questo, dico in genere. In generale, quindi, chiaro. Quindi, il fatto, la simbologia che si sia fermato lì, e il fatto che si tratta di una persona che ancora conta. Io, ecco, abbiamo ripristinato la linea con Lucio Mussolino. Buongiorno Lucio, eccoci. Buongiorno. Qua, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, intanto, è vera questa frase, documentata anche con i fedeli che ti hanno spinto, fedeli, ecco, diciamo, le persone che erano in chiesa che ti hanno spinto dopo che il parroco avrebbe detto questa frase dal pulpito, schiaffeggiate quel giornalista? La frase è questa, quella che ha detto? La frase innanzitutto, buongiorno a tutti e un saluto anche al dottore Gratteri. La frase è questa, nel senso che io il giorno, l'altro ieri è uscita la notizia appunto della processione che è avvenuta lunedì scorso, e sono andato a parlare con il prete, con questo parroco, Don Benedetto Rustico, che ha consentito all'avara di fermarsi quasi sotto casa del boss Mazzagatti. Sono andato prima nella sua abitazione, dove c'era solo la madre, che mi ha detto che Don Benedetto non era in casa e che se volevo parlare con il parroco potevo andare solo alle 7 in chiesa. Sì. Così ho fatto, E perché ha detto questa andato, frase? Cioè, la frase è stata questa: cacciate in chiesa. Io appena sono ho messo piede, ancora dovevo entrare, si vedeva la telecamera. Lui dal pulpito ha detto: invito le persone là in fondo a prendere a schiaffi il giornalista con la telecamera. Naturalmente la cosa mi ha molto sorpreso, ma soprattutto mi ha sorpreso la reazione dei delle persone lì, anche perché sono arrivate appunto a spingerti. Prima, cioè, sono arrivate le donne a testimonianza del fatto che comunque in questi contesti un ruolo fondamentale lo hanno le donne, fino a quando non è arrivato anche un signore alto che fisicamente mi ha fatto accomodare, non proprio gentilmente fuori. Ma questo, tra l'altro, c'è il video sul fattoquotidiano.it. Però io vorrei farvi sentire ciò che Domenica Mazzagatti, cioè la figlia del boss Mazzagatti, ha detto riguardo alla processione. Dottor Gratteri, lei l'avrà già sentito forse, perché cita anche lei, sentiamolo. La Madonna Annunziata e la Madonna delle Grazie lo stesso tratto fanno, là sotto passa la Madonna del Fuselà. No, va diritta verso sotto. L'Annunziata là lo fa. Gira, sì, gira lì, a tutti, tutte, sì, okay. Tutte le parti sosta. Qual, ditemi voi qual è l'anomalia, ditemi. Io voglio questa spiegazione. Io col ministro Alfano questo gli devo dire, e il ministro Bindi, quella della legge antimafia, perché io li seguo in televisione, a me piace quello che fanno per la legalità, ha capito? Quindi io questo gli devo dire al ministro Alfano e alla ministra Bindi. Eppure mi hanno detto che il procuratore Gratteri, il giudice, non lo so che cos'è, che si stanno, non lo so che cosa stanno facendo. Io questo voglio capire da loro, io solo questo, perché non c'è stato niente di anomalo. Non c'è stato niente di anomalo. Procuratore Gratteri, vuol rispondere a lei, visto che non so perché la cita, o forse lei lo sa. Ma io non è che devo spiegare o devo parlare con... Però spiegare agli ascoltatori, cioè, che vuol dire non c'è niente di anomalo in questa processione? Come dire, tutti gli anni andava così, adesso è stato fatto questo cancano. Infatti so che anche il sindaco ha detto che da 30 anni si ripete questo rito. Cioè io non è che devo spiegare nulla, cioè io sono, oltre a fare il magistrato, sono uno studioso. Dal punto di vista come storico col professor Nicasso, che studio l'Andrangheta da 29 anni e ho scritto 10 libri sull'Andrangheta, l'ultimo, il penultimo dei quali si chiama Acqua Santissima, che spiega il rapporto Andrangheta-Chiesa. Nel corso di questo studio che ho fatto, che abbiamo fatto col professor Nicasso, abbiamo dedicato un capitolo intero alle processioni e abbiamo documentato nel corso di decenni, forse anche di più di un secolo, questo rito delle processioni, la vara, l'affrontata, questo utilizzare e la Chiesa di utilizzare le processioni per fini che nulla hanno a che vedere col credo della gente, cioè utilizzare in modo strumentale questa simbologia, questi comportamenti che servono solo ad esternare ulteriormente il potere dei mafiosi, perché la Chiesa in Calabria ha molto peso e molto potere, perché è molto più seguita rispetto ai paesi, alle regioni del centro e nord Italia, quindi ha un potere forte, reale, che condiziona, quindi ad esempio, come ha detto adesso Musolino, se il prete ha detto in quel modo, lei ha detto Musolino, le donne subito si sono mobilitate, perché donne sono il motore, sono il catalizzatore, sono quelli che caricano gli uomini come le sveglie, soprattutto nelle faide, soprattutto quando si tratta di questi contesti. Mm-hmm. Quindi attenzione, basta il gesto di un prete e ti carica addosso una popolazione. E dopo il traffico ripartiamo da qui, perché lei ha detto il ruolo della Chiesa, ma ci sono state delle parole molto importanti, come tutti ben sapete, del Papa di recente, la scomunica quando è andato in Calabria ai mafiosi, e vogliamo ripartire da qui tra un attimo. Allora, siamo con Nicola Gratteri e Lucio Musolino. Lucio, molti messaggi ci arrivano a dire: ma scusate, ma questo parroco perché non viene rimosso? Che succede? Perché non viene sospeso? A parte che i tempi della Chiesa magari non sono i tempi di una trasmissione radiofonica, e non è neanche escluso che questo non accada. Ma intanto vogliamo dire, è vero che il parroco, come da 2 giorni scrivono i giornali, ha una parentela stretta con il boss di cui stiamo parlando, Lucio? Il parroco, innanzitutto la famiglia Rustico compariva in qualche vecchia indagine, però soprattutto il parroco ha un cugino, un primo cugino che ha sposato una figlia di Peppe Mazzagatti, lo stesso boss che oggi ha 82 anni. I parenti ce lo descrivono col pannolone allettato come un vegetale all'ergastolo ai domiciliari a casa, e una delle sue figlie ha sposato il primo cugino del parroco. Ma vi ripeto, il problema non è solo il discorso di parentela, il problema è il seguito che i parroci hanno in questi paesi. Basta fare un giro in paese per accorgersi come i cittadini hanno fatto quadrato attorno al parroco, consentendo addirittura che il parroco non venisse avvicinato dai giornalisti. Sì, infatti. Non è stato facile, appunto, so anche avvicinarlo. Le garantisco che ho aspettato l'altro ieri, ho aspettato l'inizio della messa 2 ore fuori dalla chiesa, il parroco io l'ho visto direttamente sull'altare. Quando l'ho visto sull'altare ho provato a entrare in chiesa. E lì è successo quello che è successo. Non mi è stato contento. Fatemi sentire un paio di ascoltatori, poi torno un attimo da Gratteri perché anche il sindaco avrei bisogno di capire qualcosa. Giampaolo da Bergamo, buongiorno Giampaolo. Sì, buongiorno. Dica. Faccio i miei complimenti, vi ascolto molto frequentemente. Sì. Due cose, prima di tutto il maresciallo che si è accorto, come diceva il ministro, mi fa un po' sorridere quel si è accorto, che siccome è da 30 anni che succedono queste cose, sì. Per cui il problema tra virgolette doveva nascere prima. Per cui, pensi Giampaolo che dopo 30 anni nessuno se n'è accorto anche questa volta? Almeno lui se n'è accorto, ecco. Sì, no, va bene. Poi per quanto riguarda la parentela del parroco, a parte il fatto che sono scelte del vescovo di mettere un parroco, sì, in una parrocchia anziché in un'altra, gli amici se li scegli, i parenti ti capitano. Per cui non è colpa sua se il parente è mafioso o presunto mafioso. Questo anche certamente. Lui, anche lui da 30 anni doveva impedire questo certamente, cosa. Però la processione questo ha fatto. Grazie Giampaolo. Carlo da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milan. Volevo ricollegarmi a quanto ha detto il ministro Mazzellotta. Io credo che sia ora di finirla con il dibattito sulla 'ndrangheta, ma sia ora di iniziare una linea durissima nei confronti di tutta la malavita, in particolare in Calabria, dove la 'ndrangheta ha radici nelle famiglie, nelle 'ndrine, e diventa inestirpabile, come ha dimostrato quello che è avvenuto l'altro ieri. Quindi carcere duro, sequestro dei beni, linea durissima, evitando che anche il boss che da 10 anni ha gli arresti domiciliari, sì, se ne stia. Guardi Carlo, lei parla con non tanto me, ma con, c'è qui un ospite che è appunto Nicola Gratteri, magistrato, che da anni propugna questa idea del Gratteri, abbiamo fatto tante trasmissioni a dire ci vuole una linea dura, sequestro dei beni, carcere duro, no? Questo dice Carlo da Bologna, basta dibattiti, sì, ma azione. Lei segue questa linea? Sì, certo, non rendere conveniente delinquere, per sintetizzare in estrema sintesi. Noi ripetiamo, non è che vogliamo i dibattiti, noi vogliamo articolati di legge, ma i dibattiti, discutere serve, è importante per sensibilizzare il potere politico, è chiaro, che è quello che poi deve andare a votare. A questo proposito, scusi, il sindaco, secondo lei, il ministro Lanzetta ha detto non so se deve dimettere, è una scelta sua, però non doveva restare lì, che è un po' come una risposta velata, non doveva essere lì col simbolo della fascia tricolore, non doveva rimanere in quella processione, secondo lei dovrebbe dimettersi un sindaco? Ma è una scelta di sensibilità sua, sostanzialmente lui in quel momento con la fascia tricolore rappresentava un pezzo d'Italia, è ovvio che lui ha detto, il sindaco da 30 anni, che la vara si ferma lì, che c'è quella sosta, quindi non è una novità, cioè come se fosse un fatto assodato, è una sua sensibilità, ci sono tante altre cose più gravi per interferire sull'operato del sindaco. Mm. Io invece volevo, lei prima delle pubblicità ha accennato al Papa. Al Papa, sì. Il Papa, quando è sceso a Cassano sullo Ionio, non ha fatto un invito, ha dato un ordine. Il Papa ha detto: se voi continuate a delinquere, se voi continuate ad essere mafiosi, siete fuori dalla Chiesa. Quindi per rispondere anche a ciò che è successo nel carcere di Larino, cioè a dire, dice noi non andiamo in chiesa perché il Papa ci ha scomunicato, quindi è inutile andare in chiesa. Ci raccontiamo, no? Che a Larino ci sono dei detenuti, sì, per 'ndrangheta che non vanno più a messa. Perché questo, dicono... non è, e questo è un falso alibi, perché il Papa vi ha detto: voi anche se avete commesso un reato, pentitevi, uscite dall'ndrangheta e entrate nella casa di Dio. In questo, quindi, ma l'ordine che ha dato il Papa, che noi aspettavamo da un secolo e mezzo, perché è da un secolo e mezzo che per la prima volta questo Papa usa il termine 'ndrangheta, per la prima volta un Papa scomunica i mafiosi, non era mai successo. Perché anche quando il vescovo Brigantini ha scomunicato, i mafiosi li ha scomunicati dopo che ignoti hanno danneggiato le piantine delle cooperative di frutti di bosco, attenzione. Mm. Quindi valutiamo anche questi tempi. Mentre dice dal Papa è arrivata una scomunica mai pronunciata prima da un pontefice. Mai nella storia d'Italia, nella storia della Chiesa. A questo punto quell'invito fatto dal Papa era rivolto anche e soprattutto ai vescovi e ai preti della Calabria, per dire finiamola di pensare che qualcuno anni fa, a mo' di battuta, dice ma noi non abbiamo certificato antimafia per sapere chi è mafioso e chi meno. Consideriamo che la Calabria, il 90% dei paesi, sono delle cittadine, sono fatte di 5.000 abitanti, 3.000, 2.000, 1.000 abitanti. Chiaro. Non si può assolutamente dire, nemmeno per scherzo, che noi non sappiamo chi sono i mafiosi in un paese. A questo proposito, invece, di quel maresciallo dei carabinieri, lei che pensa? Ma il maresciallo, io ho parlato anche col colonnello dei carabinieri, che è una persona serissima e di persona di primissimo piano. Il colonnello mi ha detto: dottore, il maresciallo si è spostato per filmare, per documentare quello che stava accadendo. Non è che si è allontanato, che è scappato. Non è stata una presa di distanza dalla, ma un modo per documentare per operare, perché appena lui si è accorto, il primo pensiero che ha avuto è stato quello di incominciare a identificare chi stava portando la vara, cioè chi stava sotto la santa, sotto la Madonna a portarla. Da qui ricordiamo che infatti è stata aperta anche un fascicolo alla direzione distrettuale antimafia per cercare di capire se ci sono delle ipotesi di reato. Allora io vi devo ringraziare e mi fermo qui. Nicola Gratteri, ricorda a questo punto, visto che lo segnalano anche su Twitter, ce l'ha detto anche lui, il libro Acqua Santissima, scritto con il professor Nicaso, racconta in uno dei tanti libri che ha scritto sulla 'ndrangheta proprio questi rapporti, il fenomeno dell'utilizzo strumentale di queste processioni religiose per fare l'ossequio ai boss mafiosi, per risottolineare l'autorità di queste famiglie in Calabria. Grazie a Nicola Gratteri, grazie a Lucio Musolino del Fatto Quotidiano. E noi non ci fermiamo perché andiamo avanti fino alle 9:30. Diamo la linea al giornale radio, poi parleremo di esteri con l'Iraq e quello che succede anche tra Israele e Palestina. 24 mattino. Sono le 9:06, come ormai sapete andremo avanti fino alle 9:30 in questo mese di luglio, e allora vogliamo parlare in quest'ultima parte di 24 mattino un po' di esteri. Gran brutta storia quello che sta succedendo in Medio Oriente, soprattutto vorremmo parlare di quello che succede in Iraq e poi anche quello che succede tra Israele e territori palestinesi, dove nella notte, avete sentito, ancora ci sono stati scontri e azioni militari israeliane. Ma procediamo con ordine proprio a quello che succede in Iraq. In Iraq da 3 giorni si è imposto all'attenzione del mondo, soprattutto da 3 giorni, perché si è mostrato anche platealmente alla moschea di Mosul nel nord dell'Iraq Ibrahim al-Badri, oppure come si fa a chiamare lì Abu Bakr al-Baghdadi, studente di teologia in passato, è stato anche prigioniero per 3 anni degli americani, pare che dopo essere stato rilasciato dagli americani, questo la Vulgata dice, abbia promesso loro ci rivedremo a New York, ora si è autoproclamato capo di un califfato. Saluto intanto Alberto Negri del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ovviamente ho fatto una fotografia molto molto sintetica di questo personaggio che qualcuno dice potrebbe essere il nuovo leader in qualche modo che terrorizza l'Occidente, e intanto così ci sono queste premesse? Ma sai, al-Baghdadi ha lanciato con questo sermone del venerdì una triplice sfida, ha sfidato ovviamente il governo sciita di Al-Baghdadi a Baghdad, il governo centrale, ha sfidato le potenze internazionali che vogliono la stabilità dell'Iraq come gli Stati Uniti e l'Iran che è alleato di questo governo iracheno, e poi ha sfidato soprattutto la vecchia guardia di Al-Qaeda guidata dal successore di Bin Laden, cioè da Ayman al-Zawahiri, perché lui in pratica si propone come un'alternativa ai vecchi gruppi jihadisti. C'è da dire che insomma c'è oggi sul Foglio anche un'analisi a dire gli Stati Uniti potevano già sapere, i segnali c'erano da un po' di tempo. Intanto lasciami salutare anche Younis Tafik, che torna nostro ospite, scrittore italiano di origine irachena, proprio di Mosul. Buongiorno Tafik, benvenuto, buongiorno, ben ritrovato. Grazie. Intanto l'ha seguito questo sermone, è stupito che proprio dalla moschea di Mosul sia apparso, per dare che segnale agli iracheni e al mondo? Mi ha fatto da prevedere, perché io sono nato proprio sotto quel minareto del grande moschea di Mosul, che poi negli anni 80, a richiesta di Saddam, un gruppo di italiani di Torino, guidati dall'ingegnere Bruno, l'architetto Bruno, aveva ristrutturato quella moschea e quel bellissimo minareto che risale al 1400. Dunque, per farla breve, un discorso inquietante. Però posso dire che all'interno della città questo non si sente. Ieri ho sentito mio fratello che tornava dal funerale di mio zio di sera verso mezzanotte, mi parlava tranquillamente e non ci sono milizie per le strade, non c'è terrore, non c'è paura. Il problema sta in questo, che questo al-Baghdadi oggi ha in mano Mosul, che poi laddove c'è anche un grande giacimento di petrolio, e poi si è possessato di armi lasciate dall'esercito di al-Maliki, e poi il suo potere si estende fino quasi ad Aleppo. Lui vuole far ritornare quel califfato del grande sì, però mi sembra di capire, cioè, vorrei capire che tipo di potere, perché sa, uno è andato lì a fare il sermone a dire sono a capo del nuovo califfato, ho capito, però mi sta dicendo che all'interno della città la popolazione non ha un grande seguito. Ora bisogna capire appunto che cosa sta succedendo. Non ha un grande seguito, mi raccontano che lui è arrivato con una filata di macchine blindate, ultimo modello, per cui macchine nere con tanto di guardie del corpo, è entrato nella moschea che poi è stata già preparata prima del sermone. Però oggi per esempio si è costituito il consiglio delle tribù, che un consiglio che oggi per la prima volta dichiara di essere contro ISIS, cioè contro questa nuova organizzazione, e poi minaccia di avanzare fino a Baghdad per cambiare il governo politico. Allora, sì. Alberto Negri, è interessante quello che ci dice Younis Tafik, cioè bisogna capire quant'è la profondità poi del messaggio di al-Baghdadi, perché sai, ci spaventiamo subito quando sentiamo uno che dice sono a capo del califfato, Occidente tremate, adesso arriveremo fino a Roma. Ora bisogna capire però quanto ci sia di concreto in questa forza. Beh, innanzitutto ci si spaventa di quello che non si conosce. Io 3 settimane fa ero in Siria, a Damasco, e ho visto sventolare alla periferia di Damasco, nel quartiere di Duma, la bandiera dell'ISIS. Sono a 400 metri dalle postazioni dell'esercito siriano. E questo non da oggi, ma da almeno 6 mesi, perché sono riusciti in qualche modo a cacciare quelli di Jabhat al-Nusra, il gruppo jihadista rivale. Quindi il gruppo dell'ISIS già da parecchio tempo è riuscito in qualche modo ad avere delle postazioni fisse intorno ad Aleppo, nella città di Raqqa, che è una città molto importante sulla direttrice verso l'Iraq e Mosul, a Deir ez-Zor si è impadronito dei pozzi petroliferi scacciando gli altri gruppi jihadisti, e a Damasco ha delle postazioni intorno alla periferia che fanno capire che comunque ha un certo seguito. Ma soprattutto, che cosa è che ha fatto questo al-Baghdadi? Al-Baghdadi non era un personaggio carismatico di primissimo piano dell'organizzazione, era diventato il leader nel 2010 nella zona irachena, e quando è scoppiata la guerra civile in Siria, che lui ha colto la grande opportunità, e soprattutto nell'ultimo anno è riuscito a scalzare gli altri gruppi. Ma come? Non utilizzando soltanto le armi e il terrore, lo ha fatto certamente, ma soprattutto il denaro che gli ha permesso in qualche modo anche di conquistarsi la fedeltà degli altri gruppi, delle tribù. E questo spiega perché per esempio a Mosul oggi non ci sia una situazione tranquilla. Per esempio la settimana scorsa questi si sono messi a distribuire gli stipendi ai dipendenti pubblici, cercando insomma di far capire che non sono soltanto terrore, ma anche in qualche modo quotidianità e ordinaria amministrazione. Ecco, i soldi però dove li prendo? Chi finanzia questo gruppo? Come si autofinanziano? Innanzitutto il gruppo è un gruppo multinazionale, cioè dal discorso che noi abbiamo sentito del sermone, a parte il titolo che fa inquietare, prenderemo Roma, in realtà sì, i suoi riferimenti sono stati a diversi paesi arabi, tra cui per esempio la ben più tranquilla Tunisia. Perché la Tunisia? Perché ci sono combattenti tunisini lì dentro, come ci sono libici, come ci sono egiziani, quindi c'è una rete internazionale di autofinanziamento. E poi ci sono i soldi dei paesi delle monarchie del Golfo, come dei sauditi, e anche di fondazioni private. Insomma, in qualche modo questa in Iraq e in Siria è una sorta di proxy war, come dicono gli inglesi, cioè di guerra per procura, che in fondo tutto sommato prosegue le guerre che ci sono state negli ultimi 30 anni in questa tormentata regione. E questo sì. Tafik, per concludere sulla questione irachena, ci diceva c'era la possibilità addirittura di parte di qualcuno di volere abbattere il regime di al-Maliki, che mi sembra sempre più politicamente instabile, oppure no, in Iraq. Tafik. Una cosa, quanto ha detto Alberto prima, i soldi arrivavano anche dai rapimenti, perché questi sono le stesse persone che avevano rapito mio fratello chiedendo alla mia famiglia soldi, quando non avevano potuto pagare l'hanno fatto fuori, per cui questi anni avevano raccimolato soldi. Poi proprio oggi, stamattina, l'opposizione siriana ha accusato l'Iran e la Russia di sostenere con armi e soldi il gruppo di ISIS e il regime siriano, per cui qui l'Occidente, se continua a far finta di non sapere, di non vedere, credo che andremo molto male, e queste arriveranno anche a Washington se non a Roma. Purtroppo la situazione è questa, bisogna intervenire politicamente contro il Maliki, ma anche militarmente contro ISIS. A Baghdad la situazione rimarrà così finché Maliki non decide di andarsene. Oggi doveva riunirsi il Parlamento iracheno, invece è rimandato fino al 12 agosto, andando contro la Costituzione, per cui hanno già violato la Costituzione con questo rinviamento, e vuol dire che noi nemmeno tra un mese avremo un cambiamento, avremo un altro governo. Certo, intervenire anche militarmente è una cosa che sempre, come si sa, siamo usciti con tanta fatica militarmente da quella situazione irachena, che già quando sente dire interviene militarmente nei confronti dell'ISIS è un qualcosa che è un dibattito, anche se si vuole, molto più profondo. Intanto io nel frattempo saluto Younis Tafik, lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Perché ci vogliamo spostare di lì a pochi chilometri, Alberto Negri. Quello che sta succedendo invece, e le notizie sono anche di questa notte, tra Israele e territori palestinesi. Alberto, lasciami salutare anche l'ex ambasciatore israeliano in Italia, portavoce del governo israeliano in Italia, ambasciatore Avi Patzner. Buongiorno ambasciatore, buongiorno, e benvenuto. Buongiorno. Con te c'è anche Alberto Negri del Sole 24 Ore. Allora, Avi Patzner, come raccontare quello che è successo, ma solo negli ultimi 10 giorni? Prima il ritrovamento dei 3 corpi dei ragazzi israeliani israeliani che erano stati rapiti, uccisi da Hamas, e poi probabilmente per una sorta di pazza ritorsione e vendetta l'uccisione di un ragazzo palestinese che è stato trovato anche bruciato, rapito e bruciato, e tre israeliani hanno confessato, delle persone fermate dalla polizia israeliana. E poi nella notte ancora razzi, insomma la situazione militare che conosciamo. Le chiedo, voi temete l'esplosione di una terza intifada, voi israeliani? Bene, noi dobbiamo vedere le cose in prospettiva. C'è adesso una spirale di violenza che è stata, uno deve chiedersi dove è cominciato tutto questo. Questo è cominciato con rapidamente e l'assassinio di tre ragazzi israeliani. E questo è stato fatto dal Hamas. Poi è venuto questo orribile assassinato di un giovane palestinese. E poi Hamas ha deciso di continuare l'attacco contro Israele, non solamente rapinando e ammazzando giovani, però anche bombardando la striscia di Gaza. E questa è adesso l'escalazione sì. più pericolosa, più importante, perché qui già non è l'assassinato di 3-4 giovani è terribile, però adesso si parla già di una confrontazione fra Hamas, che è un'organizzazione terroristica che bombarda Israele, e una risposta israeliana che può arrivare a una escalation. Certo, tutta la situazione. Però ambasciatore, purtroppo sappiamo, nelle rare volte in cui ci occupiamo di questo tema, che si cerca sempre di dire chi ha incominciato per prima. Non crede che con questa logica, che per carità c'è sempre qualcuno che dice io faccio questo per ritorsione, per qualcosa che è stata fatta a me, con questa logica però purtroppo la pace... No, non è questione di ritorsione, al contrario. È questione chi vuole tranquillità e sicurezza e chi non la vuole. Per questo è importante sapere dove comincia tutto. Sì. Tutto comincia a parte di attacchi terroristici, ok? Dopo ci sono delle reazioni, però il nostro scopo non è retribuzione, il nostro scopo è arrivare ancora una volta a una situazione tranquilla. E se non possiamo avere la pace, perlomeno abbiamo tranquillità e sicurezza. Questa è la posizione dell'ambasciatore Avi Pasen. Ha sentito Alberto Negri, ovviamente anche lì una situazione che di tanto in tanto degenera, e purtroppo il rischio che degeneri in una terza intifada, i segnali almeno ci sono tutti. L'analisi politica che si può fare qual è secondo te? Alessandro, parlavi con me? Sì, con te Alberto. Sì, ecco, senti, era andata via un attimo la linea. No, guarda, il problema è questo, che come dicevi bene tu prima, qui se si ricomincia con la questione, hai cominciato tu, ho cominciato io, tutto purtroppo poi sfocia in una sorta di duello rusticano in cui poi sono le popolazioni intere che poi pagano un prezzo durissimo. Adesso qui la realtà è che ci troviamo di fronte un governo Netanyahu sotto pressione che traballa, perché il ministro degli esteri Lieberman ha deciso di andarsene per conto suo, anche se rimane nella coalizione, no? E perché vuole fare pressioni per un'azione militare su Gaza. E l'unità palestinese, che sembrava ricostruita in modo un po' fragile con quel governo di coalizione nazionale tra Fatah e Hamas, è praticamente andata in frantumi. Ieri c'era un editoriale di Abu Mazen su Haaretz in cui si ribadisce la volontà di pace, mentre Hamas fa piovere razzi sulla parte meridionale, ecco, di Israele. Il problema è proprio questo, quello che ci diceva Avi Pazner, caro Alberto, cioè che non possiamo, come dire, confrontare lo Stato israeliano con Hamas, che è un'organizzazione che sappiamo che metodi utilizza. Cioè la controparte israeliana sarebbe l'autorità palestinese, ma in questo momento in qualche modo militarmente viene sopravanzata dalle invece le pratiche terroristiche di Hamas. ma non c'è dubbio, ma questo lo sapevamo già. E che cosa è il problema? Il problema è che l'omicidio di questi tre ragazzi da parte di militanti che sembra dell'area di Hamas, ma che non sono ancora stati trovati, era chiaramente un segnale che anche ad Hamas fuggiva il controllo e che sfugge il controllo di alcune frange. Poi se la reazione è dura, durissima, è come si è visto anche con la scomparsa, l'uccisione del giovane arabo che c'è stato il 30 giugno, insomma poi si comincia in una spirale dove, mentre all'inizio nessuno ha interesse, né Israele né Hamas, ad avere un nuovo conflitto, andando avanti nel precipitare degli eventi, si capisce che adesso Hamas ha un interesse tutto sommato a un attacco di Israele. Perché? Perché Hamas è alle corde. Il governo di unità nazionale con al-Fatah è stato fatto semplicemente perché gli egiziani avevano chiuso e strangolato praticamente il confine verso l'Egitto, e il generale al-Sisi vuole eliminare tutti coloro che in qualche modo hanno dei legami con i fratelli musulmani. Gli egiziani che adesso hanno mediato, cercato di fare una mediazione, in realtà sono interessati anche loro, tutto sommato, che Israele colpisca. Questa è un'analisi interessante. Ambasciatore Pazner, voi non avete anche il timore di cadere in qualche modo nella trappola militare di Hamas, che sta, come dire, mettendo da parte l'autorità politica palestinese e vi sta colpendo e quindi vi sta trascinando in un nuovo conflitto? Bene, evidentemente che Israele non ha nessun interesse di entrare in un conflitto militare né con l'autorità palestinese, né con il Hamas, né con nessuno, però che possiamo fare se frente a noi c'è un'organizzazione terroristica, dico altra volta, terroristica, non è uno Stato, non è un'organizzazione di liberazione, è un'organizzazione terroristica che gioca un gioco molto pericoloso per tutta la regione e noi dobbiamo difenderci, non c'è qui un'alternativa a difenderci, non è noi che abbiamo scelto Hamas come vicini, ok? È arrivato il Hamas, ha preso il potere alla forza in Gaza, ha creato un stato di terrorismo che anche se lei chiede per esempio agli egiziani chi sono i terroristi più grandi del Medio Oriente, diranno Hamas, e questo è il nostro problema. Noi dobbiamo difenderci e difendendoci possiamo arrivare a una escalation della situazione che noi non la desideriamo. A volte è così, e per fare tacere Hamas a volte se deve prendere delle misure militari molto forti. È previsto ovviamente nel caso misure militari, che sono sempre state come in questi giorni pioggia di razzi o interventi militari mirati, è esclusa una possibile entrata addirittura nella striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano, ambasciatore? Non è esclusa, assolutamente non è esclusa, non è, ancora una volta, non è questo il nostro desiderio. Il nostro desiderio è far tacere le missili del Hamas. Però se non possiamo, diciamo in 2, 3, 4, 5 giorni, non possiamo arrivare a questo. E su Israele continua una pioggia di missili. Per fermare questo dovremo entrare nella striscia di Gaza. Non ci sarà alternativa. E forse questo il Hamas deve capirlo, ok? Che c'è qui un pericolo per il Hamas, perché la pazienza di Israele ha delle limiti. Alberto Negri, un'eventuale entrata nella striscia di Gaza, saremmo già proiettati in una situazione quasi di pre-conflitto, ricordiamo che Israele è uscita dalla striscia di Gaza, cosa significherebbe una spingersi a dover entrare militarmente nella striscia di Gaza? Innanzitutto mi viene in mente che tanti anni fa si stetti al ritiro israeliano dalla striscia, che sembrava negli anni 90 l'inizio della possibilità, poi di un negoziato che ci fu, ma che finì come tanti altri, purtroppo senza avere alcun risultato. In realtà la rioccupazione di Gaza, per esempio, è stata sostenuta dal ministro Lieberman proprio qualche settimana fa. E quindi in qualche modo corrisponde un po' ai desideri di Falchi di Israele. Netanyahu non l'avrebbe voluto, non lo vorrebbe, Non vorrebbe, perché questo significa poi in qualche modo mobilitare tutta la parte meridionale di Israele e trovarsi comunque dietro anche alla risposta dei razzi di Hamas, sì, che in qualche modo coinvolgerebbero quasi 1 milione di persone. Certamente la rioccupazione della striscia di Gaza sarebbe la pietra tombale su qualunque prosecuzione o tentativo di ripresa del negoziato di pace tra le due parti. In questo momento il negoziato di pace, come dire, è messo chiaramente ai margini, e purtroppo parlano i razzi e si parla il linguaggio del possibile conflitto e della possibile escalation militare. Speriamo che non sia così. Intanto io ringrazio l'ambasciatore Avi Pazner per essere stato con noi, così come ringrazio Alberto Negri del Sole 24 Ore, e chiudiamo la puntata di oggi di 24 Mattino con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi, Anita Panizza in redazione, e l'appuntamento a domani. Saluto anche Peter Bescapè e Paolo Corleoni in regia, sì, sono qua anche loro a schiacciare tasti, a condurre la regia e la parte tecnica. Allora, con il nostro account Twitter 24 Mattino e quello mio personale Alino Milan potete seguirmi se volete, non è vietato, non vi mangio, e allora vi diamo appuntamento a domani alle 6:30 puntuali. 24 Mattino.